consigliamo nel nostro cammino di conoscenza di Gesù, delle sue parole, del suo testamento spirituale attraverso la testimonianza di Giovanni, del discepolo che Gesù amava. E saltando un po' alcuni passi che so che Don Piero vi ha parlato attraverso due passi del Vangelo dell'apostolato, eventualmente questa, ecco, la domanda, un'altra delle domande che fanno a Gesù nel Vangelo e che lo aiutano a rivelarci qualcosa che sennò lui non avremmo saputo, ma è quella di Giuda, non l'Iscariota, l'altro, è l'unico suo intervento, diciamo, sono le uniche sue parole che il Vangelo riporta. Signore, come è accaduto? E perché Gesù diceva: chi ama me sarà amato dal Padre mio, anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. E allora, a questo punto uno potrebbe pensare: ma no, Gesù, tu non stai rispondendo alla domanda di Giuda Taddeo, no? Ma perché dice: perché ti manifesti a noi e non al mondo? E Gesù dice: se tu mi ami, osservi la mia parola, il Padre mio ti ama, noi veniamo da te e prendiamo dimora presso di te. Io penso invece che gli sta rispondendo in modo profondo, nel senso che la tua logica, Gesù, è che tu ti manifesti al mondo attraverso di noi, ti manifesti al mondo attraverso di noi, perché quando noi ti amiamo e osserviamo la tua parola e tu ci ami e vieni ad abitare dentro di noi col Padre, con lo Spirito Santo, quindi noi diventiamo tabernacoli della Trinità, quindi la manifestazione al mondo di Gesù avviene attraverso i cristiani, quindi tu sei Cristo, e tu sei Gesù che passa, no? È sconvolgente questo, perché noi sappiamo che siamo molto, sappiamo di essere molto, molto lontani, a volte ci sentiamo lontani dal Signore, distratti, non so, peccatori, tutto quello che volete voi, però quello che importa è che il Signore invece ci ama e viene a noi se osserviamo la sua parola. Possiamo anche dire: se leggiamo la sua parola, se ascoltiamo la sua parola, è qualcosa di, non è qualcosa di, cioè forse noi nei confronti, parlo per me naturalmente come sempre, nei confronti della Bibbia o del Vangelo, noi, se noi abbiamo l'approccio che abbiamo nei confronti dei libri di scuola o dei romanzi anche che leggiamo, no, è diverso, è tutto diverso. C'è una potenza la parola di Dio, a maggior ragione nella liturgia. A me succede a volte che faccio magari con fatica, poi soprattutto se alle 7:15 del mattino, una meditazione uscendo dai fumi della notte, e dico qualcosa sul Vangelo del giorno, poi vado nella messa e nella messa ha ancora più luce, ha una luce diversa, no? Perché nella liturgia la parola di Dio risplende. Comunque voi dovete dobbiamo dare tutti noi una grande valore alla potenza della parola di Dio, perché Dio è presente nella sua parola. A volte nell'apostolato dire una frase della scrittura o anche della direzione spirituale, no? Io, se in questo momento sto facendo la mia direzione spirituale con un sacerdote molto bravo e biblista, allora lui sempre, anche nella confessione, mi cita un salmo, no? Per esempio. O comunque cita frasi della scrittura per dare luce al mio cammino. E quindi, e se noi ascoltiamo la sua parola, se noi mettiamo in pratica la sua parola, se noi ci lasciamo convertire dalla parola di Dio, poi il Papa diceva qualche volta, no, non so, adesso le parole esatte non me le ricordo, ma comunque regala il Vangelo, ecco. Anche San Cosa Maria regalava il Vangelo e diceva, magari fossi una persona che si vede che legge il Vangelo, no? Quel punto di cammino. E a volte anche al contrario, di fronte a qualche fatto che sentiamo dire o di cui vediamo qualche, insomma, per noi o per altri, ci viene da dire. Cioè, se è per noi già è un passo di conversione, se è per altri ci viene da dire se sono cristiani, cattolici, praticanti, ma che passo del Vangelo c'è in questa sua vita, no? E forse dobbiamo andare a dirglielo. Vai, fratello, lui solo. Cioè, scusami, io ho visto che hai fatto questo, oppure hai detto questa frase, no? Ma Gesù cosa direbbe? Ma nel Vangelo non mi ritrovo io con il Vangelo e questo tuo comportamento. Signore, dacci la forza, la grazia di fare questo tipo di interventi con la forza del Vangelo, non con la nostra opinione, no, con la forza del Vangelo. Bene, e poi quindi nella nostra orazione andare al Vangelo, no? E nella nostra così vita spirituale. Io ho visto nelle chiese di Milano, ma forse anche altrove, cioè, è abituale, mettono all'inizio della chiesa la Bibbia, cioè il lezionario aperto, e vedo gente che va, che legge. È una cosa proprio bella. Il desiderio, questi giorni a volte racconto piccoli fatti della vita anche interna dell'Opus Dei, ma quando una persona, un laico dell'opera, vede la sua vocazione, poi chiede di far parte dell'opera e cosa che non ci distoglie dal nostro lavoro, dalla nostra situazione abituale, dalla nostra parrocchia, diocesi, siamo fedeli della diocesi dove stiamo sempre, in tutto e per tutto, non, proprio il carisma dell'opera è la normalità del cristiano comune, che però riceve una luce, una formazione per capire che nella sua situazione normale può vivere la pienezza del cristianesimo. Allora, normale, e quindi la normalità è un tratto, deve essere un tratto distintivo della gente dell'opera, uno come gli altri, uno che non si distingue dagli altri dal punto di vista della normalità. Si può distinguere dal punto di vista di vivere il Vangelo. Quindi, quando vedete qualcosa, una persona dell'opera in un centro un po' strano, un po', ditelo, perché non è questo, il nostro carisma è la normalità. Santificare la normalità, trovare Cristo nella normalità, cioè sono i 30 anni di vita nascosta di Gesù, cioè dove Gesù non si sapeva che era il figlio di Dio e non lo diceva a nessuno. Era il figlio dell'artigiano, cioè, quindi negli statuti dell'Opus Dei San José Maria dice: noi ci basiamo soprattutto su quei 30, anche sulla vita pubblica, perché poi non è che dobbiamo essere nascosti, nel senso oggi evidentemente dobbiamo essere anche apostoli, però dal punto di vista della naturalezza, della normalità, a volte il fondatore diceva: non ci deve, noi, perché ci teneva questo tratto, no? Perché nella Chiesa ogni cammino di santità era, negli ultimi secoli, molto caratterizzato dalla specificità religiosa, quindi il religioso si distingue, c'è un abito, c'è un distinzione, cioè si distacca dal mondo, perlomeno tendenzialmente il tratto spirituale, per quello che ne sappiamo noi, è questo, no? E quindi è esemplare verso gli altri perché si vede, no? Si vede, no? E invece per noi in qualche modo è quasi il contrario, cioè siamo efficaci se siamo come tutti gli altri, però con la luce di Cristo nel cuore, però con con la Trinità nel cuore, siamo Cristo che passa, siamo Gesù che passa e che vive, Gesù che lavora, Gesù che fa la spesa, Gesù che chiacchiera al mercato, no? Lo dicevano anche, San Giovanni Crisostomo diceva questo ai primi cristiani, quando andate al mercato parlate di Cristo. E quindi naturalezza, normalità. Vi dicevo, San José Maria diceva, allora si fumava molto nella sua epoca, in Spagna soprattutto si fumava un sacco, e gli uomini fumavano molto. E poi oltre erano abituati a fare le sigarette con il tabacco sfuso e la cartina che si leccava, e così la sigaretta, mi piaceva molto questi qua. E allora, la cartina da sigaretta è proprio una carta molto leggera, cioè la carta è poco più grande di un francobollo, no? Allora lui diceva: non ci deve distanziare dagli altri cittadini comuni, dagli altri cattolici, dagli altri nostri colleghi, neanche un velo così piccolo come una hoja de papel de fumar, no? Una cartina da sigaretta. Non ci deve separare nulla, infatti lui non diceva i nostri simili, diceva i nostri uguali, cioè siamo uguali agli altri. Perché dobbiamo essere come lievito in mezzo al mondo, no? Per cui, ecco, tranne quella cosa che può allontanarci da Dio, che è un peccato, che si capisce, no? Però per tutto il resto, una volta un numeraio dell'Opus Dei di spagnolo fu scelto come ambasciatore di Spagna a Bruxelles e lui gli chiese: scusa, scusi padre, qui ho tutte le sere, cioè cene, ricevimenti, alcol, sigari. E lui gli ha detto, ma gli ha dato un consiglio, invece che 3 bicchieri di vino, magari ne prendi solo uno, cioè fai un po', no? Un piccolo esempio di sobrietà, così. Però non è che dice di toglierti da lì, no? Non andare, chissà. A lui piaceva dire, per esempio, a Don Francesco Angelicchio, no? Che è stato il primo a entrare nell'opera in Italia, era un avvocato. Un giovane avvocato romano che aveva fatto la guerra come paracadutista, anzi, era andato sul fronte, insomma, lì in Serbia, dove sia, insomma, comunque in Grecia, insomma, e aveva visto tali atrocità che lui per salvarsi ha detto: faccio la domanda di volontario nei paracadutisti, e è andato appunto a fare l'addestramento e per fortuna, non so se all'ottavo lancio, si è rotto una gamba e così non è andato ad El Alamein, dove sono stati tutti, il battaglione Folgore è stato tutto, diciamo, annientato, no? Poi ha avuto altri episodi di questo tipo, no? Per esempio era rifugiato a San Paolo fuori le mura, cioè nascosto dai benedettini, non so se sono, cosa sono, dai quei frati lì, nascosto. E lui è stato, solo che a un certo punto era un uomo molto divertente, un romano divertentissimo, ma comunque mi faceva ridere anche nelle situazioni drammatiche. Allora entrano, diciamo così, i fascisti, no? A fare un repulito, ma lui si sbaglia, pensa che siano gli altri, no? E lui stava leggendo sulla sua brandina l'Avanti. No, dice: ah, vieni con noi, e lui dice: no, ma io sono dei vostri, ma uguali ai nostri. E e fanno una retata, prendono tutti questi antifascisti che erano lì, e poi fanno la rivista, cioè cercano di prendere i nomi, cioè, per mandarli in Germania, nei campi di concentramento. E a lui a un certo punto gli scappa la pipì. Gli scappa la pipì, perché è quella situazione un po' di paura, quindi gli scappa che non si riesce più a trattenersi, dice, devo fare la pipì. Allora, sente, gli dicono di uscire, di andare in un posto, lui va, esce, scopre di essere da solo, c'è più nessuno, e si nasconde, cioè va a fare la pipì evidentemente, ma poi trova il modo di nasconde, quindi alla fine non l'hanno più trovato, insomma si è salvato la vita una seconda volta. Quindi, la storia della sua vocazione è così. Lui era un avvocato, gli piaceva molto il teatro, aveva fatto teatro con Paolo Panelli e con Alberto Sordi da giovane, ma così poi. E faceva l'avvocato degli artisti, così, per i diritti d'autore. Comunque, ha conosciuto l'opera e ha chiesto l'ammissione. E lui dice, ma fatemi conoscere gli altri, così io vedo un po'. Dice, guarda, gli altri, sei il primo, no? Però allora in quel momento, perché poi raccontava che nel primo lancio da paracadutista, e tutti spaventatissimi, no? Nessuno voleva farsi avanti. Allora, il primo, avanti il primo, nessuno voleva farsi avanti. Allora, vabbè, allora facciamo per ordine alfabetico. Angelicchio. Quindi questo episodio se l'è ricordato quando era lì in quel pensionato di Viale Bonozzi, una piccola casa, c'era Don Alvaro, c'era qualche spagnolo, e pensò, vabbè, io qui mi butto bene. Poi dopo, quindi lui raccontava dei racconti con il fondatore di questi primi anni, molto belli, no? Molto. E uno in particolare, cioè me ne ricordo tanti, ma uno che mi viene in mente per voi oggi, che forse qualcuno di voi già conosce, è che quando poi dopo lui fu ordinato sacerdote, venne a Milano, lui. Infatti i miei genitori se lo ricordano bene perché erano tra i primi dell'opera qui a Milano. Mia madre frequentava le meditazioni di Don Francesco in Via Telesio, cioè un unico centro, no? E fra l'altro lei mi ha raccontato a volte che queste signore degli anni 50, no, 57, 57 così, e lui nelle meditazioni le incitava a lavarsi, profumarsi, vestirsi, cioè perché evidentemente erano tematiche che nella spiritualità diffusa di allora erano viste come un po' vicine al peccato, no? Quindi per dire come è cambiato il mondo, no? E quindi nella normalità, nella laicità, ecco, come dire. A lui a un certo punto il padre gli fa sapere che lo vogliono a Roma. Gli vogliono dare un incarico nella CEI di allora, insomma, nella conferenza episcopale, proprio sulle comunicazioni sociali, no? Ufficio delle comunicazioni sociali, e doveva vedere tutti i film, fare. Allora si usava le schede di censura, no? Dava i giudizi, perché allora nelle parrocchie mettevano, ecco, per adulti, adulti con riserva, mi ricordo anche da ragazza, c'erano queste cose qua, escluso, no? Cioè, per tutti. E allora lui non aveva nessuna voglia di fare questo, no? Dice, ma mi sono inserito bene a Milano, mi sembra di stare qui a fare un bel lavoro. E allora gli ha fatto una lettera con 10 motivi per dire di no, e gliel'ha spedita. Poi dopo un po' lo chiama a Roma, no, il padre lo chiama a Roma. E quando lui entra nel suo ufficio, il padre gli dice, Checco, tu lo sai che io vi ho sempre insegnato che noi dobbiamo servire la Chiesa come la Chiesa vuole essere servita. Allora lui dice che lui in quel momento mentalmente ha stracciato la sua lettera, ha capito che non c'era, cioè che. E quindi ha cominciato a fare questo lavoro. Però lui gli diceva, l'ultima obiezione che gli faceva, dice, ma io lo conosco l'ambiente del cinema, l'ambiente degli artisti, no? non è facile, no? Non è facile fare apostolato lì. E allora Santa Cosa Maria gli disse: tu non ti preoccupare, noi possiamo andare per conquistare l'anima per Cristo fino alle porte dell'inferno. Più in là no, perché non si può amare Dio nell'inferno. Però tu affacciati sulla buca dell'inferno e cerca di aggrappare, di afferrare le anime e di portartele con te. Tu non aver paura, io starò con te, ti prendo per una mano e tu non cadrai dentro. Per cui gli ha dato un messaggio di apertura, di non paura, di non paura. Cioè, e questo è un messaggio che noi dovremmo tenere dentro al cuore e portare avanti, no? E fin sulle porte dell'inferno. E poi Santa Cosa Maria diceva anche quando cominciò così, appunto, se volete, la confusione del mondo. C'è la crisi del post-concilio, poi la crisi del 68, poi tante cose. E diceva: sì, voi potete vedere che il mondo magari è come un fiume, c'erano anche i primi fenomeni di inquinamento, un fiume inquinato, no? E quindi ci sono i pesci. Aveva visto una volta al telegiornale dei pesci che uscivano dall'acqua, si buttavano sulla spiaggia, però poi morivano. E noi non dobbiamo lasciare il mondo come, anche se è fiume inquinato, se no moriamo. Dobbiamo stare in mezzo al mondo. E nella preghiera di Gesù, sacerdote di Gesù, ci dice: non ti chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li preservi dal male. Dobbiamo stare dentro anche ai luoghi che possono avere dei problemi, sia perché sono troppo inquinati, sia perché sono troppo purificati, no? E quindi magari un po' rigidi. A proposito perché qui a un certo punto Gesù continua a parlare e nel capitolo quindicesimo dice per la seconda volta in questo tema, in questo tempo, dice: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. E allora io quando leggo queste parole di Gesù, appunto, penso mi viene da pensare alla spiegazione che ne dà il buon Papa Benedetto, che in questo secondo libro su Gesù di Nazareth, a pagina 69, dalla pagina 69 alla pagina 73, c'è un capitoletto che si intitola Voi siete puri, no? Pare, io ho chiesto al suo segretario, siano tra le poche cose su questo argomento che il Papa ha scritto, perché poi ha scritto di tantissime cose, no? E certo c'è anche la Deus Caritas Est, no? Che è molto importante, no? Che spiega che anche l'eros è stato creato da Dio, no? E che il compito dei cristiani è mettere insieme l'amore, diciamo, di carità, che è l'amore l'agape, no? Che è il vocabolo che hanno usato i primi evangelisti, perché per differenziarsi da una concezione dell'eros che era molto pagana, no? Molto insomma disordinata. Però adesso il Papa dice l'eros è stato creato da Dio. Quindi questi due tipi di amore vanno sintetizzati nella vita cristiana. Comunque, in queste parole sulla purezza spiega che nella Bibbia il concetto di purezza è diverso da quello che noi usiamo abitualmente. La purificazione è un concetto che tutte le religioni hanno presenti, cioè l'uomo davanti a Dio si sente inadeguato, si sente non adatto, e allora cerca un cammino di purificazione, e nelle varie religioni si fa in vari modi. Nell'ebraismo si fa con tutte quelle infinite prescrizioni che poi hanno portato al legalismo e hanno portato anche quindi ad andare poi alla fine contro le persone, no? Pensate all'adultera, pensate all'emorroissa, che non poteva avvicinare nessuno perché perdeva sangue, perdere sangue significava essere impura. Eccetera, no? Allora invece Gesù viene a portare un concetto di purezza che viene da Dio, e Dio non è il nostro sforzo che ci purifica, è Dio che ci purifica con la sua parola, è la fede che ci purifica, tutti questi sono dati del Nuovo Testamento, è l'amore che ci purifica. Quindi poi a un certo punto il Papa dice: ecco, la fede cristiana si differenzia anche dalle filosofie della tarda antichità, platoniche della tarda antichità, se volete poi ve lo leggete. Nella fede cristiana invece è proprio il Dio incarnato che ci purifica veramente e attira il creato nell'unità con Dio. La devozione dell'Ottocento ha poi, è molto delicato qua, no? Ha poi di nuovo reso unilaterale il concetto di purezza, l'ha ridotto sempre di più alla questione dell'ordine nell'ambito sessuale, inquinandolo così anche nuovamente col sospetto nei confronti della sfera materiale del corpo. Nella diffusa aspirazione dell'umanità alla purezza, il Vangelo di Giovanni, Gesù stesso, ci indica la via. Egli, che è Dio e insieme uomo, ci rende capaci di Dio. Lo stare nel suo corpo, l'essere penetrati dalla sua presenza è la cosa essenziale. Quindi voi tutti siete puri per la parola che vi ho annunciato. Per cui noi con questa sicurezza, con la certezza dell'amore di Maria, noi dobbiamo, con le ovvie prudenze, però non aver paura, no, di contaminarci, e con la forza della preghiera, con la forza della fraternità, con la forza dell'ambiente, anche dell'ambiente di vita cristiana che riusciamo a creare, noi abbiamo la forza di Dio che portiamo dentro di noi. Verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Non andiamo mai da soli nella realtà del mondo del lavoro, nella realtà della famiglia, nel mezzo della strada, nelle attività sociali, nell'agone politico, che volete, qualunque cosa, nel mondo artistico, siamo sempre con Dio nel nostro cuore. Siamo Cristo. Quando San José Maria nella messa che celebrava, nella festa della trasfigurazione del 31, sentì Gesù che diceva: io quando sarò innalzato da terra atterrerò tutti a me, e capì che l'attrazione della croce di Cristo è ciascuno di noi, è ciascuno di voi, cioè gli uomini e le donne di Dio in mezzo al mondo, ben uniti alla croce di Cristo, cioè ben uniti alla messa, attraggono a sé, cioè attraggono a Cristo le persone. Io penso anche, non so, nella vita di famiglia, ma se una persona è molto messa in Dio, molto, è tabernacolo della Trinità, Dio, Gesù, lo Spirito Santo, è presente in quella casa. Quanti uomini si sono convertiti nel corso della storia, uomini maschi, grazie a una moglie cristiana? Ci diceva una volta Don Carlo Pioppi che la strategia della Chiesa, quando sono arrivati i barbari, che hanno fatto un disastro, hanno rovinato una civiltà, era fare in modo che il re barbaro si sposasse con una regina cristiana. Dopodiché era fatta. Il barbaro dopo un po' si convertiva, si faceva battezzare, battezzava le 3.000 guardie del corpo perché nessuno lo potesse accoltellare, e poi si battezzava tutto il popolo. Ma è ovvio, perché una donna che ha Dio dentro lo porta cioè porta Gesù con il suo corpo accanto al marito, e unisce il marito a Cristo anche con l'amore coniugale e poi anche in tanti altri modi. Con la presenza, poi con l'esempio, poi quando è il momento, con il dono dell'opportunità che possiamo chiedere copiosamente, no? Che non tutti hanno il dono dell'opportunità così di natura, no? Che possiamo chiedere allo Spirito Santo, donaci tutti i tuoi doni, anche il dono dell'opportunità, cioè del dire la parola giusta al momento giusto, o del non dirla. Anche i silenzi a volte sono molto eloquenti. Tanto sanno già cosa pensate e magari li attraete a Cristo con il silenzio eloquente, no? O li attraete, dico, a Cristo con, a una virtù, nel mondo del lavoro, in famiglia, cioè, so che è facile dire queste cose dal pulpito, no? Però qualcuno le deve dire, poi dopo, e io sono qua in questo momento, però poi è più difficile viverle, però, e possiamo fare un atto di fede, perché questo è un atto di fede, credo Gesù che quello che tu hai detto a San Cosimiglia il 7 agosto del 31, cioè che io sono Cristo nel mio posto di lavoro e nella mia famiglia, nella mia, cioè, nel circolo del, insomma, sportivo, quello che sia, cioè, nell'associazione culturale, in tutti i luoghi dove posso stare con la mia passione per le cose della terra, per le cose dell'arte, del mondo, per la politica, per la cultura, cioè lì ti porto con me e anzi dovrò stare attento perché a saper accogliere tutti quelli che mi chiedono ragione della mia gioia, della mia speranza, della mia serenità, della mia, che non mi rendo neanche conto di avere, della mia capacità di collaborare, della mia umiltà pratica, ma non è, ma la vivo perché ho Cristo dentro di me. E allora racconteremo il Vangelo che leggiamo, il Gesù con cui che amiamo, e l'Eucaristia che riceviamo e l'abbraccio di Cristo che riceviamo nella confessione e la meraviglia della fraternità cristiana quando si vive davvero che ci dà una comunione dei santi che ci permette di superare qualunque ostacolo, qualunque difficoltà. E allora la presenza dello Spirito Santo nella Chiesa attrae, ecco, attrae da noi, la presenza dello Spirito Santo in noi attrae, poi lo Spirito Santo lo ricevono anche questi pagani negli Atti degli Apostoli, si vede che lo ricevono prima ancora di essere stati battezzati, perché Dio non è neanche legato ai sacramenti, lo si legge negli Atti degli Apostoli, Pietro deve per forza dargli i sacramenti perché loro ce l'hanno già lo Spirito Santo. E quindi niente, quindi io concludo l'orazione affidandoci a nostra Madre Maria, a nostra Madre del Cielo, che è Madre di Cristo, figlia di Dio Padre, sposa di Dio Spirito Santo, prega per noi.